presto o tardi guarderai il passaggio delle nuvole. Naso al vento inseguirai i ricordi dietro te. Allora tu vorrai capire cosa sei veramente dentro, che cos'hai e soprattutto adesso dove andrai. E di colpo saprai chi davvero ti è vicino. In un film rivedrai chi hai perduto nel cammino. Presto tardi io lo so, finiremo per rimpiangerci, perché il tempo che allontana qualche scherzo lo farà. È inconcepibile tentare un recupero e contro la logica e contro di te. Fra le braccia che ti ho perso e sarà come un pugno sulla faccia. Na na na na na. Si può, sarebbe attraversare un muro, no, di volte non c'è più nessuno. E di colpo saprò, con un'altra fra le braccia, che ti ho perso e sarai come un pugno sulla faccia.